No, ma sempre sì. Comunque abbastanza. Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata. Ringrazio la Presidente del Coordinamento Comarco per la Pace che ha scelto questa nostra sala consigliare per ospitare Mario Caniglia, questo straordinario personaggio che noi abbiamo già conosciuto lo scorso anno nelle nostre scuole. Stamattina ho avuto il piacere di risentirlo ancora, stamattina era a Capiago e ha incontrato i ragazzi delle scuole medie di Cucciago, Capiago, Senna e Montorfano. So che oggi pomeriggio ho avuto un altro appuntamento alla Teresa Ciceria Como, sappiate che è partito alle 4 stamattina da Catania, e ha mangiato velocemente e però stasera ci onora con la sua presenza. Una parola solo per dire che volevo consegnare a Mario, posso dire Mario? A Mario, due volumi, uno tutti e due della Biblioteca Comunale, il primo sono le fotografie del nostro paese scattate qualche anno fa e va bene. Questo invece è un libro molto prezioso che è stato realizzato alla fine dello scorso anno ed è intitolato Arialdo, la vita di un santo. Arialdo è quel signore, come vedete nella raffigurazione, questa raffigurazione è realizzata da un nostro artista cucciaghese, rappresenta un po' la storia di Cucciago dall'anno 1000 fino agli anni 70. Quel signore con la stola da diacono è questo Arialdo. E perché vi sto raccontando questa storia di Arialdo? Perché Arialdo, 1000 anni fa, è nato nel 1010, forse è stato uno dei pochi che non ha pagato il pizzo. Dice, ma come, 1000 anni fa si pagava il pizzo? Sì, 1000 anni fa per diventare vescovo, cardinale o addirittura papa bisognava pagare. Bene, questo uomo, nato a Cucciago nell'anno 1000, ha scelto di non pagare il pizzo e di lottare non contro la Chiesa Ambrosiana, ma per la Chiesa Ambrosiana. Così un po' come sta facendo il nostro Mario, che non nell'anno 1000 ma negli anni di fine 1990, siamo quegli anni lì, ha lottato non contro la sua Sicilia e l'Italia, ma per la Sicilia e per l'Italia. Arialdo è diventato santo, non so il nostro Mario se lo diventerà, so solo che Mario Caniglia ci sta testimoniando una personalità giusta, corretta, trasparente, che sta lavorando e lottando per la legalità. E avere stasera Mario è per me, sindaco di Cucciago, un onore. Lo ringrazio, dicevo lui che devo scappare perché ho giunta e mi devo andare ad occupare delle piccole cose, anche se le piccole cose sono comunque importanti. Lo ringrazio ancora, ringrazio voi per essere qua. Buona serata. Grazie. Proviamo senza microfono e microfono. No, come volete. Buonasera a tutti, ha già anticipato per me il sindaco di Cucciago, sono Marta Vinti, sono stata da poco nominata Presidente del Coordinamento Comasco per la Pace e questa sera mi trovo a presentare con vero piacere questo che è il secondo incontro degli appuntamenti organizzati di Oltre lo Sguardo. Il ciclo di quest'anno di Oltre lo Sguardo è tutto incentrato sul tema della legalità. Il tema della legalità è un tema molto caro al Coordinamento Comasco per la Pace, alle altre organizzazioni che hanno partecipato nell'organizzazione del ciclo di Oltre lo Sguardo ed è caro anche a me che, oltre a fare il Presidente del Coordinamento, mi occupo di amministrare un piccolo comune del Comasco. Questa sera ascolteremo la testimonianza di Mario Caniglia, che vi racconterà la sua storia, che comunque è la storia, oserei direi sia umana che professionale, di un imprenditore che ha deciso, malgrado la sua storia che poi ci racconterà, di rimanere in Sicilia e di continuare la sua vita nel catanese e soprattutto di continuare la sua attività. Quello che penso per tutti, quello che ci presenta stasera è un volto, è il volto di un sud che siamo spesso in queste zone abituati a pensare con luoghi comuni, molto spesso con un'accezione direi non molto spesso, comunque direi spesso, negativa. Questo invece è un altro volto, è un altro volto che peraltro rappresenta una storia italiana. Anche qua non possiamo pensare di essere esenti dalle illegalità, dalla mafia e da tutto quello che comportamenti e gestioni non in linea con la legalità possono portare. Quindi quella che lui ci rappresenta è una storia siciliana, ma è anche una storia italiana. Io vedo che qua ci sono anche alcuni amministratori e essendo amministratore ci tengo a che anche noi ascoltiamo in maniera direi quasi più attenta rispetto agli altri queste storie, perché queste storie sono da insegnamento e devono guidare la vita dell'amministratore sia nelle azioni che negli atti che poi la pubblica amministrazione esprime, perché la pubblica amministrazione lavora con le parole, gli amministratori parlano alle persone, ma poi agiscono con degli atti e gli atti devono corrispondere a quello che le persone dichiarano di essere. Quindi io ascolterò attentamente questa storia, ne farò tesoro e credo che tutti noi dopo questa serata usciremo sicuramente con qualcosa in più da portare, soprattutto con qualcosa in più e con qualcosa di diverso che potrà guidare in maniera migliore le nostre azioni. Quindi passo la parola a Mario Caniglia e auguro a tutti un buon ascolto e una buona serata. Poi credo che alla fine del suo intervento potremo anche fare qualche domanda, qualche approfondimento. Tutte le domande che desideri. Esatto, grazie. Prima di tutto voglio ringraziare l'amministrazione comunale del luogo che ci ospita in questa sala istituzionale e questo mio intervento secondo me ha duplice significato, perché portare una testimonianza di vita vissuta in una sala istituzionale è diverso di portarla in un altro luogo e ringrazio l'amministrazione perché mi sta dando questa possibilità. Ringrazio soprattutto il coordinamento Comasco per la pace che da diversi anni ci conosciamo e si è instaurato un rapporto di amicizia vera. Vero è, sto venendo, abbiamo finito di cenare ora in una famiglia qui in Lombarda, che era impensabile che un contadino di Scordia andasse a cenare in una famiglia lombarda. Eppure stasera mi hanno fatto sentire un privilegiato. Scusate perché mi sto commuovendo, perché qui in prima fila, dopo circa oltre 30 anni, 40, ci sono due miei compaesani, fratello e sorella Faraci, che guarda caso abitavamo a circa 50 metri di distanza nella stessa strada. E rivederli mi si è riempito il cuore di gioia e mi sono commosso. Il mondo sembra grande, ma è piccolo. Detto questo, la mia storia, molti di voi la conoscono. Io vado in giro per tutta l'Italia a raccontarla perché quello che ho passato io e la mia famiglia non voglio che succeda agli altri. E per non succedere agli altri bisogna parlarne. E allora, chi sono io? Mario Caniglia, un contadino, imprenditore per necessità. Vengo da Scordia, provincia di Catania, la capitale del commercio degli agrumi, dove vi sono le arance più dolci del mondo. molti di voi hanno assaggiato le mie arance e possono confermare o smentire se quello che io sto dicendo è verità o menzogna. La mia storia sembra un film di mafia, ma al contrario dei film di mafia dove c'è un copione, c'è un regista, ci sono degli attori, nella mia storia non c'è un copione, non c'è un regista, non ci sono attori. Gli attori principali della mia storia siamo stati io, la mia famiglia e i carabinieri. Per farvi capire bene chi sono io, devo iniziare da molto lontano, da quando avevo 11 anni. Perché 11 anni? Perché io mi sono laureato a 11 anni con la quinta elementare. Da quel giorno la mia penna stilografica è diventata la mia zappa. Zappo la terra da oltre 50 anni. Nel 69 muore mio padre e mi lasciò in eredità un etto di agrumeto. Lavorando solo sotto la pioggia, il cielo, l'afa, senza Natale, né Pasqua, né Ferragosto, a distanza di 10 anni quell'ettaro di agrumeto si moltiplicò e diventarono 12 ettari. Nel 79 c'è una cattiva annata. Il frutto del mio lavoro, le mie arance, rischiavano di rimanere appese sugli alberi invendute. E io non sapevo cosa fare. Cosa penso di fare? Penso di venire qui nell'Italia ricca, esattamente Milano. Perché Milano? Perché Milano per me è stata e ancora tutt'oggi è la capitale del commercio. Mi metto su un treno e mi reco a Milano. Arrivando a Milano vado negli orti mercati di Milano e lì incomincio a chiedere a destra e a manca se qualcuno era disponibile a vendere le mie arance. Finalmente trovo una persona che mi dice proviamo. Contento scendo giù in Sicilia, raccolgo nel mio paese, raccolgo il primo camion di arance e li mando su. Appena arrivarono quelle favolose arance, quello lì me li vende subito e bene. Mi telefona e mi dice se io posso mandare un altro camion di arance. Raccolgo un altro camion di arance e glielo mando su. Un altro ancora. Tutta l'intera produzione. Mi va bene, anzi, benissimo. E dico che io ho finito le mie arance. E lui mi dice se io posso comprare altri aranci che siano simili ai miei. A Scordia, gli aranci quell'anno stavano tutti appesi sugli alberi venduti e non c'era problema di comprare altri aranci. Anzi, c'era l'imbarazzo della scelta. Compro altri aranci e gliele mando su. Da quel momento divento imprenditore. Quei 12 ettari si continuano a moltiplicare. Costruisco un bel capannone per la lavorazione degli agrumi. Creo ricchezza per me e per gli altri. Tranquillità, benessere. Mi compro persino la Mercedes per farmi la passeggiata la domenica con la mia famiglia. Sino a quando una sera, dopo una lunghissima giornata di lavoro, perché le mie giornate iniziano tutte le mattine alle 5 e finiscono la sera, quando è presto, alle 8, alle 9, alle 10, alcune sere anche a mezzanotte. Quella sera avevamo finito di lavorare verso le 8, 8 e mezza e stavamo cenando, quando squilla il telefono. Chi era? La mafia, che a tutti i costi voleva fare eruzione a casa mia, dicendo queste testuali parole: brutto cornuto, o paghi 500 milioni o altrimenti ammazziamo te e la tua famiglia. Credetemi, lì per lì non l'ho preso in considerazione, però mi sono turbato e quando io mi turbo l'ho fatto scritto in faccia. Mia moglie, i miei figli mi chiedono chi era, cosa voleva. A casa mia non ci sono segreti. E dico che uno sciagallo voleva 500 milioni. Ci si è fatto una risata, abbiamo finito la nostra cena e poi siamo andati a dormire. L'indomani mattina mi sono alzato e me ne sono andato a lavorare. A mezzogiorno ritorno a casa per pranzare. Da quando io smetto di lavorare a quando riprendo a lavorare, la pausa pranzo dura un'ora. E in quell'ora mia moglie mi fa trovare tutto pronto. Quel giorno, tornando a casa, non c'era niente di pronto. Trovo la mia famiglia sconvolta. Esempio. Era come se mi avessero ammazzato ed io stavo lì al centro di casa e i miei familiari attorno a piangere. Cosa era successo? Erano arrivate altre telefonate che si facevano sempre più minacciose. In quel periodo mio figlio, il più piccolo, faceva il militare di leva, il soldato, e lo faceva a Catania. Dicevano che se io non avessi pagato quel mezzo miliardo, prendevano mio figlio, lo ammazzavano, gli staccavano la testa dal busto e ce l'avrebbero fatto trovare dietro la porta. Provate voi ad immaginare per una mamma, per delle sorelle, vigliacchi, vigliacchi, vigliacchi. Dicevano pure che se io avessi chiamato i carabinieri ci avrebbero fatto saltare in aria. A quel punto il mio compito era quello di proteggere la mia famiglia. E come? Come potevo? Con molta discrezione chiamai i carabinieri, dicendo a loro cosa mi stava accadendo. Dico ai carabinieri di non venire con la macchina militare in divisa, ma di venire con la macchina civetta e in borghese. Arrivarono subito come un fulmine. Mentre che io stavo raccontando ai carabinieri cosa mi stava accadendo, squilla ancora una volta il telefono. Erano loro, i mafiosi. Dicevano: cornuto, hai chiamato i carabinieri? Adesso ti facciamo saltare in aria. Un maresciallo, che sa il fatto suo, mi suggerisce di fingere di trattare, e così io feci, dicendo: chi siete? Cosa volete? Io non ho questa cifra incredibile. Fate i diamanti che ci metteremo d'accordo. Loro, i mafiosi, rispondevano dicendo: tu sai chi siamo. Ma credetemi, io non sapevo chi fosse. Dentro di me esplode una rabbia incredibile. Volevo vedere in faccia chi fossero questi mafiosi che in cambio di sua maestà il denaro ci volevano ammazzare le volte. E dico a quel maresciallo: appiccicatemi addosso una microspia che io vado alla ricerca dei miei estortori. In un primo momento c'è stato un po' di ostilità. Poi è intervenuto un magistrato, mi hanno appiccicato addosso una microspia e io sono andato in giro alla ricerca dei miei estortori. andando in giro e chiedendo chi fossero i miei estratori, a un certo punto non capisco niente, più niente. Non capisco chi sta davanti a me, se è mio amico o nemico. Un giorno, assieme ai carabinieri, abbiamo deciso di andare a trovare il guardiano dei miei giardini. Voi vi chiedete, il guardiano, e perché? Come tutti voi sapete, chi fa il mestiere di guardiano per forza di cose deve conoscere i malviventi, altrimenti che guardiano è? Attrezzato di microspia, vado a trovare il guardiano dei miei giardini e racconto a lui cosa mi sta accadendo. E lui mi mette tanta paura, dicendomi che qui non si tratta del furto del trattore o del camion o della macchina. Mi dice che qui di mezzo c'è Cosa Nostra, la mafia, quella vera. E se qui si sbaglia a dire una sola parola, ci scappa il morto. Mi dice che lui con queste cose non c'entra. Alla fine io lo stravazzo un po', dicendo che lui mi deve aiutare perché io sono disponibile a pagare, ma non so a chi mi devo rivolgere. Alla fine lui mi dice che chiederà in giro a qualcuno più grande di lui e che mi farà sapere. Quando dico qualcuno più grande di lui, mi riferisco a qualcuno che conta nella malavita, e cioè un boss, un capo. Vero è, dopo un po' di tempo mi telefona e mi dice che c'è una persona più grande di lui che mi vuole incontrare. Mi combina un incontro e io, sempre attrezzato di microspia, vado a quell'incontro. Anche a questa persona racconto cosa mi sta accadendo. A questa persona imploro aiuto. Questa persona mi lancia un messaggio dicendo di non andare in giro a chiedere chi sono i miei estortori, perché i miei estortori stanno sotto casa mia. Per farvi capire questo passaggio, sia il guardiano dei miei giardini e sia questa persona più grande del guardiano, questo boss, non sono di Scordia, il mio paese, ma un paese vicino a Scordia, Lentini. Dicendo che i miei estortori stanno sotto casa mia, si riferivano ai boss locali di Scordia. In quel periodo, per i carabinieri di Scordia, Scordia era pulita, perché il boss di Scordia stava in galera. Al boss di Scordia gli avevano ammazzato mezza famiglia e l'altra metà stava in galera. E per i carabinieri Scordia era pulita. Ma non era così, perché c'era un fratello del boss di Scordia che stava insieme a libertà. Abbiamo deciso assieme ai carabinieri di andare a trovare il fratello del boss di Scordia. Sempre attrezzato di microspia, vado a trovare il fratello del boss di Scordia. E lui mi aspettava con ansia. Prima che io inizi a parlare, lui mi dice: cavolo, ce n'è voluto di tempo prima che tu venissi. E io le chiedo: perché? E lui mi risponde: perché? Perché siamo noi. Voi? Chi? Le dico io. Quelle delle telefonate. Io dico che non ho 500 milioni. E lui mi dice: sì, lo sappiamo. E io le dico: e allora cosa volete da me? Mi dice che per me è stata fissata una tassa di 20 milioni annui. Io dico: 20 milioni annui? E cosa mi date in cambio? E lui mi fa degli esempi: tu paghi 20 milioni e puoi dormire tranquillo, anche con le porte aperte. Perché se ti rubano un trattore, noi te lo ristudiamo. Se ti rubano un camion, te lo portiamo sino a casa. Mi dice persino se mi danneggiano un albero, sempre con loro devono fare i conti. In sostanza, mi offrivano un'assicurazione a copertura totale rischio. Mentre nei palazzi romani si parlava di mafia e antimafia, con quella microspia indiretta io restituivo allo Stato cosa vuol dire estorsione, la sua portata economica, il suo significato. Facendomi forte di quella microspia e sapendo lì dall'altro lato lo Stato ascoltava, io dico che non parlo. E lui mi dice, no, ti conviene pagare. Mi dice che ascolti io un pizzo, lo pagano tutti. Mi fa una serie di nome e cognome di imprenditori scordienze e le rispettive cifre che pagavano il pizzo. Mi dice che anche lui è una vittima, perché alcuni mesi prima gli hanno ammazzato un figlio. A lui stesso una mattina, mentre portava dei fiori sulla tomba di suo figlio, gli hanno sparato ed è vivo per miracolo. Mi dice che lui si è dovuto sottomettere alle cosche vincenti e a lui gli hanno assegnato il ruolo del cassiere del pizzo di scuola. In cambio a lui lo lasciano lavorare dando tutto l'appalto nel movimento terra, sia nel pubblico che nel privato. La torta, se l'avevano divisa, ebbene. A quel punto io dico, visto che non sei tu il capo, prima che io paghi una lira, voglio vedere in faccia chi do i miei soldi. E lui mi dice no, prima paghi e poi vedrai il capo. E io le dico di no e finisce lì quell'incontro. Dopo un po' di tempo mi viene a trovare e mi dice che c'è il capo che mi vuole incontrare. Mi combina un incontro e io, sempre attrezzato di microspia, vado a quell'incontro. A quell'incontro chi si presenta? Un ragazzotto. Quel ragazzotto, credetemi signori, non era nessuno, era uno dei tanti miserabili assoldato della mafia e messo lì a rappresentare il boss di Scotia. Quel ragazzotto io lo conoscevo, perché alcuni mesi prima l'avevo visto sul litorale Agnone Bagni in Catania che affittava acqua scura. Appena io lo vedo, gli punto il dito in faccia dicendo, io a te ti conosco, tu non sei quello che affittava acqua scura? E lui mi dice di sì. Dico, ne hai fatta di strada, sei diventato il boss di Scordia? E lui mi risponde, e che vuole, chi stai a vita? Cosa vuole? Così è fatta la vita. E le chiedo, cosa vuoi tu da me? E lui mi risponde, perché un zio ci ha detto, perché lo zio non gliel'ha detto, ma da te lo voglio sentire. E mi ripete le stesse cose, che per me è stata fissata una tassa, 20 milioni, bla bla bla bla. A quel punto io già avevo capito e intuito chi erano i miei estortori. Facendomi sempre forte di quella microspia e sapendo che lì quel luogo era tutto circondato di carabinieri invisibili, io li provoco e incomincio a giocare d'azzardo. Dico che non pago. Mi invento di essere anch'io un ex mafioso e dico che ho amici potenti che contano e che sono in grado di scatenare una guerra. Ma le faccio capire che nelle guerre chiunque vince ci sono sempre dei perdenti, perché morti ci stanno da una parte, morti ci stanno dall'altra parte. Nonostante ciò, io le dico che non voglio guerra. E le offro un pacchetto di sigarette, una tantum, una sola volta e basta. E poi non li voglio più vedere in faccia. E questo pacchetto di sigarette servono per le spese che voi avete sostenuto sino a questo momento. Loro recepiscono il messaggio e mi dicono quanto sarebbe il lire questo pacchetto di sigarette. Io, per poterli incastrare, le offro 5 milioni. Loro mi dicono che l'offerta è troppo povera e che non la possono accettare. E io le dico che questa è la mia prima e ultima offerta, prendere o lasciare. E finisce lì quell'incontro. Da quel momento c'è stato un silenzio. Un silenzio molto lungo, lungo e tombale. Il silenzio ammazza. E vi confesso che per me e per la mia famiglia è stato proprio quello il momento in cui noi abbiamo avuto più paura. Il silenzio. Faccio un esempio. Se soffiava vento e sbatteva una finestra o una porta, noi saltavamo in aria. Se cadeva a terra un oggetto o una sedia, la stessa cosa. Persino lo Stato si scaglia contro di noi, perché con quella intenzione che io mi ero fatto di essere un ex mafioso, lo Stato pensava che io mi avessi messo d'accordo con i mafiosi e avessi pagato. Mi minacciava dicendomi che mi buttava in galera e avrebbe buttato la chiave della cella. In quei giorni io ero da solo. E avevo due nemici, la mafia e lo Stato, e non sapevo cosa fare. Un giorno, e questo giorno non lo dimenticherò mai, perché era la Domenica delle Palme, non avevo più il crocifisso addosso. Per pura fatalità vado in uno dei miei arancieri e incontro l'amico dell'amico, cioè la persona più grande, quella che mi presentò il guardiano, quel boss. In quel periodo io stavo facendo un orto di angurie. Con la scusa di quell'orto lo invito nel mio orto. Lui viene nel mio orto e lì io le racconto cosa mi stava accadendo. Man mano che io racconto cosa mi stava accadendo, capisco che lui già sapeva tutto. Anche con lui mi invento di essere un ex mafioso. E dico che ho parlato con i miei amici e i miei amici mi hanno consigliato di andare a parlare con il gallo del pollaio, in quel caso sarebbe lui, e di farlo ragionare. Perché altrimenti, se scendono in campo i miei amici, ci sarà guerra, e le guerre non conviene a nessuno. Lui recepisce il messaggio, e lo recepisce forte e chiaro, e mi dice: perché io sono il signor Caniglia, un uomo d'onore, mi sistemerà lui stesso la mia storia, per come voglio io, e che presto mi farà sapere. E finisce lì quell'incontro. Vero è, la stessa sera, verso le 9 di sera, squilla il telefono. Chi era? Il guardiano dei miei giardini. E mi dice che c'è una persona più grande di lui che io so, che mi vuole incontrare subito, e mi dà un appuntamento in uno dei miei arancieri. E qui, signori, vi confesso che io in vita mia di sbagli ne ho fatti tanti, tantissimi, ma quello che sto per raccontarvi per me è stato il più grande. Non ci penso due volte, come uno sprovveduto vado a quell'incontro. Arrivo lì, davanti al cancello dei miei giardini, e c'era il guardiano dei miei giardini da solo. E le chiedo: dove sta l'altra persona? E lui mi dice che sta dentro gli alberi. E io le chiedo: perché? E lui mi dice: come tu sai, anche le stelle hanno occhi per vedere e orecchi per sentire. Credetemi, la paura in quel momento è stata talmente grande che io me la sono fatta addosso, perché la paura fa anche questi scherzi. Loro, i mafiosi, sentono la mia paura, e una voce dentro gli alberi mi dice: Trasisi, entra, sono io. Entro in quell'aranceto e mi dice che lui ha parlato con i suoi amici e per poterli convincere ha dovuto sudare 7 camicie, ma alla fine ce l'ha fatta. In sostanza mi dice che io devo pagare 5 milioni una volta sola e basta, ma quei 5 milioni li devo portare prima della festa di Pasqua. 5 milioni, signori, credetemi, non me ne sarei neanche accorto di averle più in tasca, ma per me era qualcosa di più forte di me. Per me era come se io dovevo fare un patto con il diavolo, ma io patti con il diavolo non ne faccio. Torno a casa, racconto tutto alla mia famiglia, prendo il telefono e chiamo ancora una volta i carabinieri e racconto di quel giorno. Questa volta sono i carabinieri a strapazzare me. E avevano tutte le sante ragioni di questo mondo per strapazzarmi, perché io quel giorno avevo giocato troppo d'azzardo. Decidiamo assieme ai carabinieri di non portare 5 milioni, ma la metà, 2 milioni e mezzo. Ho preso 2 milioni e mezzo di tasca mia, l'abbiamo fotocopiato assieme ai carabinieri, l'abbiamo messo dentro una busta e poi tutta l'Italia ha visto la consegna di quella busta, dicendo che gli altri 2 milioni e mezzo glieli avrei portati al più presto possibile, cose che io non ho fatto mai. Loro, i mafiosi, presto si fanno sentire. 2 o 3 giorni prima della raccolta di quelle angurie mi spaccano oltre 500 quintali di angurie una per una, facendo un taglio netto a segno di croce. Un messaggio forte e chiaro in gergo mafioso che significa: vedi cosa succede a chi non mantiene i patti? In un casolare adibito a deposito di attrezzi agricoli, dove lì io tenevo i miei trattori, me lo scassano. Ma per mia fortuna i trattori, gli attrezzi più costosi, li avevo già sportati via. Ma loro puliscono ugualmente tutto ciò che resta. Sparano sulla porta di quel garage, un altro segnale che significa che io devo morire. Nel gennaio del 99 si presenta a casa mia dei funzionari del Servizio Centrale di Protezione, dicendo che io e la mia famiglia ci dovevamo fare le valigie e andarcene via da Scotia, perché a giorni dovevano arrestare i miei estorsori. E lì scoppia subito un conflitto, dicendo a quei funzionari del Servizio Centrale di Protezione che non ero io ad andarmene, ma gli altri. Perché, signori, qui c'è una mia compaesana che mi conosce sin dalla nascita. Credetemi, io in vita mia non ho fatto mai male a nessuno, neanche a una mosca. E dico a quei funzionari che se in Sicilia tutte le persone oneste che denunciano devono scappare via dalla Sicilia, lì in Sicilia resteranno solo i mafiosi. Ed io questa soddisfazione a loro non gliela do. Dico sempre a quei funzionari che se lo Stato li vuole proteggere, nella mia Scolpia mi deve proteggere. Dove io sono nato, dove io sono cresciuto, dove io ho creato ricchezza per me e per gli altri. Il 2 febbraio del 99 vengono arrestati i miei estortori. E da quel giorno la mia vita è cambiata. E forse per sempre. Perché da quel giorno io vivo giorno e notte scortato. Persino quando dormo sotto casa mia ci sono due angeli custodi che sono carabinieri a vigilare per la mia sicurezza e quella della mia famiglia. E qui colgo l'occasione per ringraziare i miei angeli custodi che tutti i giorni rischiano la loro vita per salvaguardare la mia. E tramite loro ringrazio tutta l'Arma dei Carabinieri, e non solo l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e anche i vigili urbani. E sapete perché, signore? Perché questi servitori nostri, perché lo Stato siamo noi, lavorano per noi tutti, per la nostra sicurezza, e noi ne dobbiamo essere fieri. E ora vi prego, facciamo un applauso. Giorno che devo andare a testimoniare contro i miei estortori. Siamo in un'aula di tribunale, un'aula grande, forse il doppio se non più del doppio di quest'aula, e quel giorno quell'aula era piena, strapiena. E quell'aula era spaccata in due. Da una parte stavano i miei estortori in gabbia, accanto a loro i loro parenti, gli amici degli amici, i mafiosi, che con sguardi violenti e penetranti ti ammazzavano. Dall'altra parte c'ero io, ma io non ero da solo, perché accanto a me c'era il Consiglio Comunale a Completo di Scortia che si costituì parte civile. C'era l'Associazione Antiracket di Scortia che si costituì parte civile. C'erano tutte le associazioni antiracket della provincia di Catania, Siracusa, Messina e oltre lo stretto. Ma quel giorno, accanto a me, soprattutto, c'era lo Stato. Allora rappresentato dall'onorevole Tano Grasso, commissario ordinario e straordinario di governo. Signori, io ho concluso. Io sin dal primo momento ho avuto fiducia nell'istituzione e a me tale fiducia è stata retribuita. E ora dico a tutti voi che io, Mario Caniglia, un contadino, imprenditore per necessità, se ce l'ho fatta io, ce la possono fare tutti gli altri. Grazie. Poi sentita dal vivo, aveva ragione, prima dicevo a madre che avevo letto un suo articolo, ho sentito da dire una qualcosa. Io volevo capire così proprio personalmente cosa l'ha spinta, cioè qual è secondo lei il suo, qual è stato il suo pensiero e la sua forza che l'ha guidata per respingere la prima richiesta, cioè ci ha pensato, le è venuto naturalmente, a cosa ha fatto risalire questa sua forza che ha scoperto di avere o che magari sapeva già di avere, non so, se lei si immaginava prima che succedesse una cosa di questo tipo, si era mai immaginato un momento del genere e aveva mai immaginato di poter rispondere in questo modo? No, non mi ero mai immaginato, però vede, io sono un contadino che in vita mia conosco solo una cosa, lavoro, lavoro, lavoro e niente altro che lavoro. E una persona che lavora è un uomo libero. Io libero sono nato e tale voglio rimanere. Perché vede, se io avessi pagato una sola lira, avrei perduto la mia libertà, ma soprattutto la mia dignità. Non pagare sono scelte, e la scelta che ho fatto io l'ho fatto assieme alla mia famiglia, consapevoli dei rischi che correvamo e che ancora tutt'oggi stiamo correndo. Prego. Dottoressa, lei che oggi ha pranzato con me. Forse proprio perché ho pranzato con lei. Lì era una palanca di domande, qui ora anche lei. Ma non è l'imbarazzo, è come dire proprio questo senso proprio di soggezione che si prova non nei suoi confronti, perché Mario è una persona squisita veramente, abbiamo pensato e io mi sono trovata veramente accolta in una maniera incredibile da tutte le sue parole, da tutti i suoi racconti, come se fossimo amici da sempre. È proprio la soggezione che deriva invece dal valore incredibile e inestimabile delle sue parole. Mi perdoni, ha detto una parola, amici da sempre, signori, ci tengo a sottolinearlo e voglio che voi lo sappiate. Nel mio paese, quando la mia denuncia si è resa pubblica, gli amici di un tempo se ne sono andati. Alcuni parenti mi salutano a stento, ancora tutt'oggi. Ebbene, sono contento che quelle persone, e non amici, falsi amici, se ne sono andate. Però credetemi, in questi 12 anni e mezzo, 13, che sono sotto protezione girando l'Italia per largo e per lungo, ne ho trovati tanti di amici veri, dove ci siamo conosciuti per la prima volta. E qui la testimonianza e il coordinamento con Masco. E che io ne sono orgoglioso di essere loro amico, perché mi chiamano sempre per portare la mia testimonianza e non solo, mangiano le mie arance, che sono diverse dalle altre arance che vanno a finire sulle tavole degli italiani. Perché vedete, signori, le mie arance, oltre ad avere le solite vitamine, hanno quattro cose di diverso delle altre arance. Primo, il profumo, perché è il profumo della libertà. Secondo, hanno due vitamine in più, oltre ad avere le solite vitamine, ed è la G come giustizia e la L come legalità. E per ultimo, le mie arance sono come me, libere, non pagano il vizio. scusi che lo interrompo. Vede come ci sentiamo piccini di fronte a queste cose, per quello che facciamo per parlare noi grandi. Invece mi ha fatto molto piacere che oggi i piccini, cioè i nostri ragazzi questa mattina, invece facevano le domande in una maniera incredibilmente spontanea. Noi che siamo grandi, di fronte alla grandezza delle sue parole, ci facciamo piccoli. No, io vorrei fare nel mio piccolo una considerazione di questo tipo. Mi ha molto colpito il suo racconto e in questi anni sto proprio cercando di conoscere sempre più queste realtà che non ci vengono raccontate ovviamente nei media normali, insomma. Quello che mi colpisce, cioè che sento io l'esigenza, è come fare a difendersi da questa illegalità imperante. Cioè io mi dico sempre questo, sono orgogliosa dei miei amici perché ritengo che le persone che frequento, che mi frequentano, siano persone oneste. Ma come si fa a vivere? Per esempio, il discorso delle sue arance, come si fa anche proprio nell'ambito di quello che è gli acquisti piuttosto che delle scelte di vita, non diventare il meccanismo che favorisce comunque certi commerci illegali? Perché voglio dire, a me quello che fa impressione oggi di prezzi assolutamente troppo bassi rispetto a quello che dovrebbe essere il costo giusto di un prodotto, per cui col lavoro, con tutto quello che ci vuole intorno al prodotto. Perché voglio dire, lei avrà dei dipendenti per cui paga i contributi, per cui paga tutto quello che deve pagare. Non possono costare niente queste arance. A parte che ho sentito recentemente tutto il discorso di importazione di agrumi da navi che arrivano. Guardi, è sconvolgente quello che è sconvolgente. Per cui noi come facciamo a difendere il nostro prodotto, che è il nostro prodotto italiano? Come facciamo a sostenerlo quando si fa anche fatica a capire da dove arrivano le arance, per esempio? Allora, innanzitutto oggi, grazie a noi produttori, è obbligatoria la provenienza. Quando lei va a comprare un chilo di arance, stia attenta, legga la provenienza. Se è Sicilia, se è Calabria, siamo sempre in Italia, ma soprattutto se è scritta piccolina piccolina che si deve portare la lente di ingrandimento, quella che ingrandisce al massimo, Sudafrica, assurdo. California, assurdo. Ma anche in questi giorni, sì. I nostri negozi qui. Argentina, il limone dell'Argentina, sì signore, sì. Ebbene, un'altra cosa, mentre che da noi tutti quei prodotti per la conservazione, per la lunga, per non farli marcire, per la lunga conservazione, sono stati banditi perché scientificamente sono risultati cancerogeni, negli altri stati sono liberi. Lei compra un chilo di limone dell'Argentina, addirittura diventa come una palla secca, ma non marcisce. Compra un chilo di limone della Sicilia, a una settimana, 10 giorni, incominciano a marcire. Perché? Perché non sono trattati. E così anche con le arance. Purtroppo non dipende da me. No, guardi, io... la cosa che fa arrabbiare qui tutti è quando dicono lo vuole il mercato. Cioè che cosa vuole il mercato? La gente compra quello che si può permettere. Allora, per cui come si fa? Qui dobbiamo dire grazie, guardi, glielo dico da imprenditore, la globalizzazione, il mercato libero ci ha consentito così. Ma un padre, e qui entro e esco subito perché sono apolitico e apartitico, perché altrimenti andiamo a toccare la politica. Io a casa mia, prima devono mangiare i miei figli, poi se c'è d'avanzo per il vicino di casa. In Italia non è così. Prima mangiano i vicini di casa e poi se ne avanza mangiano i miei figli. Chiudo. so se sono stato chiaro. Prego, quel signore lì. Mi permetto, torniamo al discorso della società civile attorno a lei, come si è mossa e come non si è mossa. Sì. Il Consiglio Comunale aveva un dipinto che tratteggia quella che era non tanto tempo fa da una parte e tanto dall'altra, la realtà di Cucciaro, degli agricoltori, piccole imprese, maniscalchi, la realtà industriale che si diviglia poco a poco, sempre più ingrandendosi, e povera gente benestante, anche la chiesa di Cucciaro. Riesce un po' a dirci un po' meglio come non solo le singole persone, ma anche le realtà hanno reagito quando hanno saputo di questa sua scommessa, di questo suo rischio. E poi se in particolare ci fa un discorso sul tema della Chiesa, se ha reagito in qualche maniera, se non ha reagito, se è stata interessata, se è morta lì, se è viva, se è piena di uomini coraggiosi, di gente che l'ha sostenuta in maniera forte. Grazie. Allora, nel mio paese, solidarietà, dire zero sarei un ipocrita, ma pochissimo. Perché vede, andando in giro con quella microspia, senza volerlo, ho scoperto che Ubizzo, scoddio, pagavano un po' tutti. Facendo nome e cognome di quegli imprenditori, la procura ha chiamato quegli imprenditori, ha invitatoli a denunciare e hanno smentito e sono stati denunciati per favoreggiamento. Tutte le caville legali hanno smontato anche persino la registrazione della propria voce quando io andavo in giro, ti dico e non ti dico qua e là, che non posso raccontare. E a un certo punto io, senza volerlo, oltre ad andare in quell'aula di tribunale a testimoniare contro i miei estortori, sono dovuto andare per 5 volte, non una volta, a testimoniare contro gli imprenditori scordienzi collusi che pagavano il pizzo. Ora la domanda gliela faccio io a lei. A quel punto, in un paese come Scordia, che siamo intorno ai 20.000 abitanti, dove ci conosciamo un po' tutti, come disse Totò, cani e porci, chi sono i miei amici? I mafiosi o gli imprenditori collusi? Perché vede, quando in me scattò quella rabbia incredibile di vedere in faccia chi fossero questi mafiosi che in cambio di sua maestà e denaro ci volevano ammazzare noi tutti, io mi ero fatto un concetto che queste persone dovevano essere uomini eccezionali, esempio tipo Superman. Ebbene, io queste persone che a me mi volevano rendere schiavo e togliermi la libertà, le ho viste in faccia. Credetemi, signori, sono rimasto deluso. E sapete perché? Perché non sono paura, non sono nessuno. E ho capito una cosa semplice, elementare, che è la nostra paura che li rende forti. È la nostra paura che li rende. Lei mi può dire che io sono un uomo coraggioso? No, non sono un uomo coraggioso. Io ho tanta paura e le confesso oggi più di ieri. Ma come disse un grande servitore di questo Stato, che ormai non c'è più, e sarebbe Giovanni Falcone, di paura si muore. Altre domande? La domanda sul tema della Chiesa, per favore. Eh? La domanda sul tema della Chiesa, se è possibile, se c'è qualcosa da dire. Guardi, io sono un cattolico, non praticante. Con tutta franchezza. Con tutta franchezza. Guardi, io sto parlando con la massima sincerità, senza sottofugi. Io le dico, sono un cattolico, non praticante, ma credo, ci credo, in qualcosa. Solidarietà della Chiesa, zero. Io non le faccio una colpa alla Chiesa o a tutti gli altri. Per me la colpa, sa qual è? Che c'è una parola d'ordine, perché c'è un filo conduttore che unisce mafia e politica, e la politica dice che di queste problematiche non se ne deve parlare. Io stasera sono qua, ho fatto 1500 km, stamattina mi sono alzato alle 4 per fare, questa è la terza conferenza che io faccio quest'oggi. Mi dico un po', dove stanno quelli della carta stampata? Dov'è l'occhio magico e che penetra nelle case, entra nelle case, la massaia mentre che prepara la cena o il pranzo ascolta? E di queste problematiche se ne parla poco, molto poco, qui è il difetto. Se se ne parlasse di più, allora, dice, c'è un problema, lo dobbiamo risolvere. Come facciamo per risolvere? Ci metteremo attorno a un tavolo e il problema si risolve. Qui ci siete dei politici. Quando c'è un problema nel vostro comune, vi mettete attorno a un tavolo. Questo è il genere. Dovrebbe essere il luogo deputato a risolvere. Esatto. E si battono pugni fino a quando si arriva a una soluzione. Non si risolve il 100%, si risolve al 50%, 60%, però si affronta il problema. Ma se uno è nel problema, si volta dall'altra parte e quel problema è come se non ci fosse, il problema lì è, lì resta. Eppure, nonostante ciò, sa signore cosa le devo dire? Che con la morte di Falcone, ma soprattutto con la morte di Borsellino, dal 92 a oggi, se ne è fatta strada, e tanto. Certo, ancora è lunga e in salita, perché vede, con la morte di Borsellino per me nacque la primavera della legalità, perché prima, sino a quel giorno, nei palazzi romani dicevano che la mafia in Sicilia non esisteva, e quando allora Presidente della Repubblica venne a Palermo nei funerali di Borsellino, i palermitani di Brancaccio, il quartiere più malfamato di Palermo, dove lì non si sa di dove inizia e dove finisce la legalità, l'hanno assaltato a colpi di pomodoro. Scafo ha dovuto andare via, e allora capirono che il problema esisteva ed era molto grave. Da quel giorno a oggi non ce ne sono stati più omicidi eclatanti, né di testimoni di giustizia che hanno denunciato, e sono tanti e tanti, perché vede, non è Mario Caniglia la mosca bianca. Io ne conosco tanti e tanti che sono sotto protezione come me, perché gli altri non fanno il suo dovere. Però non se ne parla. Questa è la chiave di tutto. Parlare. Perché parlando si rompe quel muro d'omertà che, al contrario di altri muri, stende ad abbattersi. Ma se non se ne parla, signore, è come se tutto va bene, tutto liscio. Prego. Grazie. Grazie a lei. Posso? Certo. Vorrei sapere, la sua impresa, lei si è fermato a un certo punto, non ci ha raccontato se adesso continua a progredire, se, nei suoi affari di vendita o di altro, se ha difficoltà o come a prescindere dagli amici persi, meglio perderli. Bene, ho capito perfettamente, sto rispondendo subito a tono. Vede, io sono un uomo fortunato, anzi, dico molto fortunato, perché ho una famiglia unita e che forse non sono neanche degno di averla. E dico questo perché la mia azienda è composta, è una società in una comandita semplice, composta da me, mia moglie e i miei tre figli. Il 20% ce l'ho io, il 20% ce l'ha mia moglie, il 20% ce l'hanno ciascuno dei miei figli. E siamo tutti per uno e uno per tutti. A un certo punto noi abbiamo fatto una scommessa con noi stessi. E la scommessa qual è stata? Come io vi ho raccontato, parto da 1 e arrivo, numero simbolico, e arrivo a 99. Voi tutti sappiate che gli ultimi 10 anni, perché la crisi non è nata ieri, la crisi nacque a partire del 2000 con la globalizzazione, negli ultimi 11 anni praticamente le cose, come diceva quella signora, stanno andando all'indietro. E allora, a un certo punto noi avevamo deciso di stare cauti per non perdere tutto quel 99 acquisito negli anni. La scommessa con la mia famiglia è stato quello di mettere in gioco tutto il 99 acquisito pur di arrivare a 100, per dimostrare a tutti gli altri, soprattutto nel mio paese, ma all'Italia intera, che si può dire di no e che si può lavorare come prima e meglio di prima. Ebbene, noi non solo siamo arrivati a 100, l'abbiamo oltrepassato, siamo arrivati a 200 e siamo arrivati a 300. In questo momento noi stiamo camminando a 300. Ciò significa che la mia azienda ancora oggi sta crescendo, perché abbiamo fatto una nuova ricerca di mercato, non ci si è fermati e ci sta andando bene, perché le nostre giornate iniziano alle 5 e finiscono mediamente alle 8 o alle 9 di sera. Faccia lei il conto, quante ore di lavoro facciamo noi, perché lavoriamo un po' tutti. Però è in sostanza, un buon segno, perché vi hanno anche lasciato lavorare sui bastoni tra le ruote. Guardi, e non vi hanno girato le spalle, perché poteva succedere anche quello, che dal punto di vista legale lei aveva ragione e appoggio delle istituzioni, ma poi non la lasciavano lavorare perché le voltavano le spalle. Ma chi le voltava le spalle? I clienti, per farle capire. Guardi, che per non mia fortuna, per mia fortuna i clienti, perché le arance le consumate voi qui nell'Italia ricca, problemi, sì, quello che dice lei è vero. C'è stato qualche cliente omertoso che appena ha saputo che io mi ero incanalato in quella situazione, ha detto: guarda, possiamo stare qua là, un pane, io, boom, vero, c'è stato. Però vede, non è solo quel cliente, l'Italia è grande. Noi abbiamo fatto una nuova ricerca di mercato. E ovunque io mi presento, siccome mi presento con i miei angeli custodi, io lo dico. Tanti, gli fa onore lavorare con me, si sentono privilegiati. È quello che io volevo sentirle dire, e questa è una cosa molto bella. Una mano me la state dando anche voi, io penso che qui moltissimi di voi hanno mangiato le mie arance. Io speravo che stasera ci fossero anche le arance. Guardi, noi abbiamo iniziato ieri, se volete, qui c'è il coordinamento comasco, io a partire del lunedì vi faccio arrivare dei arancini. Premesso che non è il tarocco in questo periodo, è una velina. Ecco. Un'altra domanda. Prego. Un taccio. Qualcun altro ha seguito il suo esempio dopo di lei, visto che la sua storia è a lieto fine? Allora, quelli piccoli sì. I piccoli sì. I grossi no. Perché i grossi, pagando il pizzo, traggono una convenienza. E ora vi faccio un esempio. Il mio volume d'affari all'incirca è intorno a un milione e due anno lordo. E perciò sono nella categoria dei piccoli. Ci sono altri imprenditori, commercianti di agrumi, che fanno 4, 5 milioni, 3 milioni e così via, sarebbero il triplo, il quadro di quello che faccio io. Per uno di quelli pagare 1000 euro al mese, lei faccia una proporzione, che percentuale è su quel volume di affari, i benefici che riceve? Semplici. Va a acquistare gli aranci del contadino al prezzo X, il mercato crolla e gli aranci non glieli raccoglie, glieli fa cadere a terra. Quello lì va lì, ma come, tu ti sei comprato le aranci e almeno me le raccoglie, me le stai facendo perdere? E incomincia ad alzare il tono di voce. Quello lì va nell'ufficio, prende il telefono, chiama l'amico buono e le dice: senti, guardi che qua c'è Mario Vaniglia che mi sta rompendo le scarpe, lo volete fare calmare? Bene, ora ci pensiamo noi. Vanno due ragazzotti, se lo mettono nel mezzo, guarda che quel signore è cosa nostra, abbassa il suo tono, perché altrimenti siamo costretti ad intervenire. Naturalmente la paura e pazienza, c'è da chiare, credeci, ciao, capisci? E questo è uno. Oppure un operaio si cerca i suoi diritti e non glieli dà al 100% e batte il pugno sul tavolo. La medesima cosa, capito? Questo è il sistema. Prego, altra domanda. Volevo chiedere io una cosa, forse più terra terra. Lei vive sotto scorta, la sua famiglia? Anche la mia famiglia aveva la scorta, però ci hanno rinunciato. Le nostre cose sono sotto protezione. Allora io dissi alla fine, raccontando la mia storia, che sin dal primo momento ho avuto fiducia nelle istituzioni e a me tale fiducia è stata retribuita. Prego. Io avrei un'altra domanda. Che tipo di attività ha fatto con le associazioni anti-racket, oltre immagino anche l'attività come quella che stasera ha fatta, immagino anche nei comuni della Sicilia, in altri comuni in Italia, ma che tipo di attività ha fatto con gli imprenditori preventiva rispetto a questo problema? Allora, io faccio parte del direttivo nazionale del FAI. La FAI è la federazione delle associazioni anti-racket italiana, capitanata da Tano Grasso. Non so se qualcuno conosce. Ebbene, il nostro compito è, prima di tutto, quando c'è una persona che denuncia, di non lasciarlo solo, seguirlo. Poi, nei processi, costituirci parte civile. E poi, soprattutto, noi educhiamo i ragazzi alla legalità, perché vede, la lotta alla mafia, secondo me, non si fa con i carri armati o con il mitra o con il bazooka. La lotta alla mafia è un fattore culturale e qui bisogna cambiare la cultura. E su questo vi voglio portare una piccola testimonianza che una ragazza liceale di Napoli mi raccontò. Mi invitarono a Napoli, andare in una scuola di Napoli, la Rico Fermo di Napoli. E lì, naturalmente, chi sto saggio e chi sto dico, cioè questa è la mia storia e questo io vi racconto. Dopodiché domanda e risposta, destra manca, poi finisce l'incontro e si avvicina una ragazza, 17enne, 18enne. Dice, signor Caniglia, avrei piacere di stringerle la mano. Sa cosa le devo dire? Dice, mio papà e mia mamma hanno emigrato in Germania perché qui a Napoli mio papà sin da piccolo faceva il pizzaiolo, le pizze. Purtroppo negli ultimi tempi le è venuto a mancare un po' di lavoro e ha preferito andare in Germania. Appena sono arrivate lì in Germania si hanno aperto subito una pizzeria. Mio papà, dice, fa le pizze talmente buone che da subito è partito in quinta. E una sera si presentarono due picciotti, si misero accanto il registratore di cassa e quando praticamente sono rimasti soli, mia mamma era la cassa, dice, ma ancora non l'hai capito, dice, cosa? Noi siamo quelli del pizzo. Dice, cosa è il pizzo? In Germania. Dice, sì, qui dovete pagare il pizzo. La moglie chiama il marito. Dice, senti, guarda cosa vogliono questi signori. Dice, ehi, tu, devi pagare. Come devo pagare? Ma qua siamo in Germania. E quanto dovrei pagare? 200 euro al mese. Si guardano in faccia marito e moglie, preme il registratore di gas, prende 200 euro e glieli dà. Quei giovanotti, a distanza nella stessa strada, a 200 metri, c'è un'altra pizzeria, ma questa pizzeria è gestita dai tedeschi. Arrivano là, dice, ho pizzo. Cosa? C'ho pizzo. Il marito dice, aspetta un po' che ti prendo i soldi. Passa nel ditiero, fa il numero e chiama la polizia. Arriva subito la polizia, li prelieva e se li porta. Secondo lei, è cultura o non è cultura? Il napoletano, appena le hanno chiesto il pizzo, ha premuto subito il registratore di cassa, non ci ha pensato due volte e ha pagato. Il tedesco ha chiamato la polizia. E allora il fenomeno è culturale. Se io oggi e domani sono qui, nella vostra splendida terra, è per dire per come stanno le cose, e soprattutto i giovani, di farli crescere meno omertosi di noi. Perché vede, signora, una persona adulta come me, se io sono nato omertoso perché i miei genitori mi hanno insegnato, non vedo, non parlo e non sento, come le scienze. E se me oggi la scienza mi facessero il trapianto della testa e nel mio corpo rimanesse una goccia di sangue, ritornerei ad essere un omertoso. I giovani no. E allora nei giovani, secondo me, bisogna lavorare. E questo io sto facendo, perché vede, signore, io sono nato contadino e tale sono rimasto. solo la differenza è che da 12 anni è passa questo, da 12 anni è passa sino a oggi sto seminando legalità, sperando che quel seme di legalità attacchisce nei giovani. Io oggi parlando sia con gli studenti liceali, ma soprattutto con i pulcini, su 400 e più pulcini, io scommetto che una buona percentuale il seme lì attacchisce. E anche dall'altra parte, chi sembra raccoglie. Prego. C'è qualche altra domanda? Non lo so, anche nei piani alti, Anche nei piani alti potete fare domande, qualunque tipo di domanda. Scusi, io non vorrei essere sempre preparato, ma la mia considerazione adesso riguardo questo discorso di differenza tra Germania e... Allora, io lo vedo anche sotto un altro aspetto, che noi saremo culturalmente propensi a dire va bene, pago, buonanotte, però probabilmente non abbiamo, non ci sentiamo coperti, che appunto chiamo la polizia e mi aiuta, mi risolve, mi difende, non so come dire, no. Lei, no, lei, ecco, lei sta marciando con il piede, con il piede sbagliato, guardi, allora, guardi, lei è libera di non crederci. Io dal primo momento che chiamai i carabinieri, a me non mi hanno lasciato solo neanche per un istante. Allora perché nessuno, non so. E non solo me. Guardi, io le posso fare una serie di nomi e cognomi di testimoni di giustizia sotto protezione come me che hanno denunciato e lo Stato non l'ha lasciato solo. Ma questo è molto, molto importante. Esatto. È molto interessante e non viene. E questo lei mi fa, mi perdoni signora, lei fa questo tipo di discorso perché lei giustamente è all'oscuro quello che sta succedendo nella società, perché come dicevo prima non se ne parla, non se ne parla, non se ne parla, ma se lei sapesse che in Italia praticamente ci sono oltre 300 testimoni di giustizia sotto protezione come me, allora lei dice va bene, se qualcuno si presenta io subito chiamo la polizia. Io le consiglio da subito, quando si presenta qualcuno non ci deve pensare due volte, deve chiamare carabinieri, polizia, guardia di finanza, chi vuole, tanto lavorano sempre sotto lo stesso padrone che siamo noi, perché quando parliamo di Stato, lo Stato siamo noi. Bene, se lei non ha fiducia le conviene praticamente ad andarsene in un'altra... No, non è questo di dire, sì. Però per dire appunto perché questi signori non hanno chiamato la polizia ed altri non chiamati, vuol dire che nella nostra educazione è mancato qualcosa, cioè mi sembra ovvio. Giusto, e allora educhiamo i giovani alla legalità, perché l'ho detto io, noi adulti non c'è più niente da fare. Mi creda sinceramente, ora parlo contro di me. Sa, io di queste conferenze con adulti avevo deciso di non farne più. E sa perché? Perché ne ho fatti tantissimi. E alla fine, poi, quando finisce questa assemblea e usciamo fuori al gruppetto, ah, qua, là, chi gliel'ha fatto fare? Sì, sì, questo è il commento. Mi creda. Parola mia d'onore, ma chi si crede di essere quello là? I ragazzi questo non lo dicono, i ragazzi vengono e mi dicono avrei il piacere di stringergli la mano, vedo dove sta la differenza? Dottoressa, lei cosa ne pensa? Io stavo pensando che questa mattina la cosa più bella che forse ha detto, pensando proprio a quello che sottolineava come necessità, diciamo, di portare un cambiamento a livello culturale, quando ha detto ai ragazzi: bisogna che voi impariate a rivolgervi ai vostri insegnanti, a denunciare i piccoli gesti di prepotenza che magari all'interno della classe si determinano. E ha detto poi una cosa molto bella, che va perfettamente in sintonia con quello che stava dicendo ora la signora: la scuola è lo Stato, l'istituzione. Però io faccio una domanda provocatoria non a lei, ma ai genitori presenti in quanto rappresentante della scuola. Quanta fiducia abbiamo oggi nella scuola, nell'istituzione scuola? Secondo me poca. A volte poca, magari anche perché può capitare l'insegnante sbagliato, questo ci sta, magari l'insegnante poco competente. Però noi percepiamo spesso che c'è una credibilità che diminuisce nelle istituzioni in generale e anche nella scuola. Ma se diminuisce nella scuola, noi intacchiamo proprio quel percorso che diceva il signor Caniglia di fiducia nelle istituzioni e di importanza che lo Stato deve avere nel tutelare, nel garantire la crescita proprio di valore della legalità che noi dobbiamo portare ai nostri ragazzi. E allora a volte io penso a quello che dice appunto stasera, quello che ho detto stamattina ai ragazzi, il signor Caniglia, come il guaio più grosso che noi possiamo in qualche modo fare nei confronti dei nostri ragazzi. Che la scuola sia sempre presente nel modo giusto, questo non può essere, però sicuramente è importante che lo sia, ma lo sia soprattutto nel messaggio che dobbiamo dare noi adulti ai nostri ragazzi, che è lo stesso messaggio che portava oggi e questa sera il signor Caniglia a noi adulti, quando diciamo: diamo valore alle istituzioni, diamo valore allo Stato, diamo valore alle forze dell'ordine, crediamoci per primi, anche se non tutto funziona sempre, magari quella è colpa nostra, magari per quella è colpa nostra. Lì io non entro, perché altrimenti dovrei entrare nella politica, e io faccio una sola politica, si chiama legalità, e non mi coloro per nessun politico. Però noi sappiamo, gli adulti, le cose come stanno, e noi, quando arriva quel momento, quel magico momento, è inutile che ci facciamo convincere dell'amico, del compare, della comare, votiamo Pozzo Ciccio o Pozzo Pasquale o Pozzo Torino. Ho parlato il dialettale siciliano, perché alcune volte la battuta sicula è incisiva. E allora noi dobbiamo votare secondo la nostra coscienza, secondo il nostro, e non perché me lo dice l'amico buono, perché poi non ci dobbiamo lamentare che siamo mali governati, perché l'abbiamo voluto noi. Prego. Prego. Va bene, non è che sono No. Ecco, ma tu li ascolti? Hai fatto qualche incontro nelle scuole? Qualcuno? No, perché io a 30 anni che sono qua volevo sapere se, che poi anche quel po' di volte che vengo giù non è che... Allora... Io parlo di scordia. Scordia, allora ti dico, abbiamo fatto di più. Anche i concorsi e i ragazzi. Concorsi di legalità. Cioè? E diamo dei temi e poi praticamente ognuno fa il suo tema oppure disegni e poi c'è una commissione di esperti e chi vince noi come società civile li portiamo a Roma nel Parlamento oppure a Palermo, li premiamo e poi diamo anche piccole borse di studio, borse di tesori naturalmente, primo premio 300, secondo premio 250, così sino ad arrivare a 50 euro. coinvolgere i ragazzi. E nella nostra scordia ti dico che addirittura i ragazzi del liceo Ettore Maiorana hanno fatto anche dei filmini. E sto lavorando per fare nascere la giovanile dell'Antifrag. Sì, la giovanile dell'Antifrag. Prego, altre domande. Intanto volevo manifestare tutta la mia solidarietà. Mi trovo perfettamente d'accordo sul problema culturale, eccetera. Io sono un insegnante, nel mio piccolo cerco di educare la legalità. Lei ha detto si è laureato a 11 anni. Per cui elementare. Solo per immaginare che titolo di studio. Il suo senso di legalità, di giustizia, di dignità, se la domanda non è troppo personale, gliel'ha insegnata qualcuno, cioè vorrei la testimonianza della sua esperienza da persona, che l'ha insegnato qualcuno, la famiglia, la scuola che ha frequentato, la mi permette di dire no, no, è cresciuta allora guardi allora io mi ritengo un uomo molto fortunato perché la mia famiglia, e non mi riferisco a mia moglie e miei figli, mi riferisco alla mia famiglia paterna e la mia famiglia ancora, mio nonno, mio spinnonno. Noi veniamo di una famiglia di contadini. Quando i tempi che furono, quando ancora non c'era la TV, ogni sera dovevamo andare dal nonno, tutte le sere. Il mio maestro è stato mio nonno, mio padre, che mi ha trasmesso i valori della vita. Non occorre un titolo di studio per leggere questo libro. Volere e potere. La cultura si acquisisce anche non sapendo leggere. E c'è un accanto che impara, non è mai troppo tardi, dopodiché si mette. E che, sai, signore, nel terzo millennio i valori della famiglia si sono persi. La stragrande maggioranza, per fortuna ancora a casa mia ci sono, ecco perché le dico sono un uomo fortunato, molto fortunato. Un momento fa io dissi forse io non ne sono degno, perché mentre che io sono qua la mia famiglia sta lavorando lì. I miei figli oggi non so quante telefonate, mi hanno tempestato di telefonate. Prego. Hanno detto che fa qui piove, possiamo raccogliere le arance. Non è quella la telefonata. È nonno? È nonno? Cinque volte. Cinque volte. C'ho una nipotina che fu... i tempi che furono 13 anni fa, aveva pochi mesi, è stata anche lei minacciata, perché se prendeva il telefono mia figlia, le dicevano brutta puttana, mia figlia, digli a quel cornuto di tuo padre che ci porti i soldi, perché altrimenti ammazziamo tua figlia nella culla. E lì dove si trova? La forza, coraggio, guardi, non sono coraggio, sono scelte. E scelte, sì, scelte. Cosa potevi fare? Rinunciare, salvare la famiglia. Pagare? Pagare? Non la saluto più. I suoi figli Vi dico ancora di più, io ho una nipotina ora 13 anni e mezzo, quasi 14, la prima, la seconda, il secondo ha 12 anni e poi a scendere una di 5 anni e mezzo, un'altra di 4 e l'ultimo 3 anni. A casa mia ancora si usa che quando c'è un problema ci sediamo tutti attorno a un tavolo, anche i miei nipoti li ascoltano. Questa mia nipotina avevamo un piccolo problema e parlavamo di più e del meno, e io uno a uno i miei figli faccio parlare, no? E poi per ultimo parlo io. Mia nipote fa, nonno posso? Dice, ma sai, perché non facciamo così, così, così? Aveva ragione lei. Bravo. Nell'incoscienza ti risolve il problema. Questo significa famiglia. E io ne sono fiero, orgoglioso della mia famiglia. Cosa? Come si vive sotto scorta? Da uomini liberi. So lei cosa vuole dire. Purtroppo questo è il prezzo che io sto pagando per la mia libertà. Me le assicuro che sono un uomo libero. Libero, libero a 360 gradi. Lei ha ripetuto più volte la parola lavoro. Cioè l'importanza del lavoro, come il lavoro ci renda liberi, ci renda autonomi, ci renda indipendenti. Ma in un sistema nel quale purtroppo il lavoro sta venendo sempre più meno, ci sono sempre più difficoltà, sta venendo meno, ci sono difficoltà, addirittura leggiamo che il 30% dei giovani riesce a fatica a trovare lavoro e trova lavori spesso indecenti perché sono sottopagati e sono senza alcun tipo di garanzia. Cosa si sente di dire? Perché effettivamente oggi è facile, specie in una terra come la sua, anche a volte ascoltare le sirene di questi che promettono anche facili ricchezze in questa maniera. Un uomo che non trova lavoro è come un malato terminale. Io così lo definisco. E non si sente libero. Si senta un parassita, perché il lavoro nobilita l'uomo. Io la penso così, e per me tutti dovrebbero lavorare, tutti dovrebbero avere un lavoro, ma la colpa non è mia. Io nel mio piccolo sto facendo la mia parte, perché io nel mio piccolo non solo ho creato ricchezza per me stesso, ma soprattutto per gli altri. Il mio lavoro è stagionale, ora noi abbiamo iniziato ora, per 6 mesi con me lavorano fra magazzino e campagna circa 50 operai, sono 50 famiglie. Mi dispiace che ho un lavoro stagionale, ma se io potessi vi farei lavorare 360 giorni l'anno, mi capisce? Io nel mio piccolo la mia parte la sto facendo, perché quando mi hanno notificato di pagare il pizzo, allora con me lavoravano circa 15-18 operai, ora sono arrivato a circa 60, il 300 che dicevo prima. Allora nessuno ha voltato le spalle dei dipendenti? Sono rimasti? C'è stato un periodo. Guardate, se io dovrei raccontare giustamente, sì, c'è stato un periodo. E qui, visto che lei ha toccato un tasto, sicuramente lo sapeva, tocchiamo sempre la politica. entro e esco subito. Nel 2002 cessò il governo D'Alema e iniziò il governo Berlusconi. Il messia dell'antiracket, che io più volte questa sera ho citato, Tano Grasso, in quel periodo era commissario ordinario e straordinario di governo nel fondo di solidarietà al Viminale. Il fondo di solidarietà significa la legge 4499 voluta dalla società civile, da noi, associazione antiracket. Cosa dice questa legge? In sostanza, il spirito di questa legge è: l'assicurazione che ti vuole fare il mafioso pagando il pizzo te la faccio io, Stato, gratuitamente, dal momento che tu mi denunci. Perché dal momento che tu mi denunci, esempio, se te ti dovessero bruciare il negozio, il magazzino, la qualunque cosa, io ti risarcisco e te lo ricostruisco meglio di prima. E lì c'è un comitato di solidarietà dove c'è nominato un commissario ordinario e straordinario di governo. E siccome è una legge che ha proposto la società civile, cioè significa noi, associazione antiracket, e per legge deve essere gestita da noi. E allora, sino al 2002, commissario, perché parte nel 99, commissario ordinario e straordinario di Tano Grasso. Cessa il governo D'Alema e sale il governo Berlusconi. Ministro degli Interni, Scajola. Appena Scajola si inserisce, a Tano Grasso le dà il ben servito, il licenziamento. Noi come società civile ci siamo ribellati e abbiamo manifestato davanti al Viminale. Per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana abbiamo addirittura occupato il Viminale. Dice: ma chi? 400 capi, 2 minuti e 2 sfumati. Avete capito o tradotto? Perché abbiamo chiesto al ministro un incontro, il ministro ce l'ha concesso, però non si è presentato. A quel punto, a posto del ministro, si presentò il capo di gabinetto, prefetto Sorge. In quella delegazione c'ero anch'io. C'era la vedova Libero Grassi, Tina Maisano Grasso, c'era il Fulosicco, Fossa Guaggio non vi dice niente, un imprenditore di Gela che denunciò 2 cosche mafiose, sia Cosa Nostra che Istidari, e altri testimoni di giustizia e presidente di associazione. A un certo punto il capo di gabinetto dice: per motivi di Stato il ministro disdice l'appuntamento a voi dato. E noi abbiamo risposto tamburo battente dicendo: noi di qua non ce ne andiamo sino a quando non arriva il ministro. Il prefetto Sorgi, capo di gabinetto, dice: noi vi buttiamo fuori con la forza. Fatto. Guardate che fuori ci sono i giornalisti. Perché se non uno lo fa, Mario Caniglia era un eroe. Ora ci buttate fuori a calci fuori. Non l'hanno fatto. E noi di lì non ci siamo mossi. Lui si è attivato, ha chiamato il ministro è venuto e poi abbiamo discusso. Fermo restando che non ci ha dato spiegazione, dicendo: noi siamo un altro governo, abbiamo deciso così e gli uomini li mettiamo noi, chi vogliamo. Ma libero di farlo. Noi come società civile cosa abbiamo pensato di fare per protestare? Fare una carovana anti-racket e anti-usura che è partita da Termine Marese e poi si è conclusa sia al Viminale che sia alla Commissione antimafia. Partita da Termine Marese abbiamo attraversato parte della Sicilia, la Calabria tutta, la Basilicata, la Puglia, la Campania e poi siamo arrivati nel Lazio. Io cosa ho pensato di fare? Di portare un po' di cassette delle mie arance e ovunque io arrivavo nei luoghi che ci fermavamo offrivo alle autorità del luogo una cassetta delle mie arance dicendo quello che ho detto a voi, che avevo le mie arance. Quando fecero scappare queste arance? Quando noi siamo arrivati a Napoli, perché il sindaco di Napoli, la Rosa Russo Iacolino, ci ha ricevuto a noi come se noi eravamo dei re. Nella sala quella grande, lì la stampa nazionale, internazionale, e anche in quell'occasione io vedessi al sito, questo è il frutto del mio lavoro, queste arance vanno a venire qua. Naturalmente l'occhio magico, quella frase, l'ha presa e l'ha mandata in onda su tutte le TV nazionali, dicendo Mario Caniglia, simbolo della lotta alla mafia, anche le sue arance sono scese in campo contro la mafia. Naturalmente a qualcuno del luogo lì questa cosa non c'entra niente. Così poi ho fatto al Viminale, così ho fatto anche alla Commissione Antimafia, al Presidente della Commissione Antimafia. Poi siamo rientrati, il 17 di marzo del 2003, perché allora con me c'erano circa 15, 16, 18 operai che lavoravano. Una sera gli operai si riuniscono davanti al mio magazzino, uno per tutti mi dice: signor Caniglia, le vogliamo parlare. Prego, come va? Da domani mattina non ci aspetta più perché noi non verremo a lavorare per lei. E io le chiedo perché? E lui mi risponde, dice: perché noi abbiamo deciso così. Mi voltano le spalle e se ne va. Fra quegli operai ce n'era uno a me molto fidato. Lo chiamo appattatamente e le chiedo dove io ho sbagliato. E lui mi dice: no, lei non ha sbagliato. E allora perché mi state lasciando? Ma vi rendete conto che danno a me mi fate? Lui tenteggiava, io lo tranquillizzo e mi fa, dice: vede quella macchina lì? Dice: io l'ho comprata l'anno scorso. Per poterla comprare, dice, ho firmato, dice, tanti di cambiare che puntualmente ogni mese sto pagando. Se a me mi rubano la macchina o me la bruciano, io devo continuare a pagare e un'altra macchina non me la posso più comprare. Dice: ha capito? Sì, l'ho capito. E le chiedo chi era stato a minacciarli. E lui, da buon studioso, da buon siciliano, mi dice: al solito, assai vuole sapere. C'è il tuo peccato, non c'è il tuo peccato. Ebbene, in quel momento a me era come se mi avessero tagliato le braccia, perché un imprenditore che le viene a mancare la manodopera, che può fare? Niente. Vero è che io ho dovuto svendere le arance che mi sono rimaste e ho dovuto chiudere. Poi, durante l'estate, giustamente, e qui abbiamo fatto la scommessa con la mia famiglia e così via, dicendo: no, noi non dobbiamo buttare la spugna. Mio figlio, il più piccolo, dice: papà, ora ci sono delle cooperative che fanno prestazioni di manodopera. Se noi, anziché chiamare i singoli, interpelliamo delle cooperative, noi il problema l'abbiamo risolto. Bene, e allora a questo punto noi dobbiamo ripartire alla grande. E qui abbiamo messo in gioco il 99. Abbiamo interpellato delle cooperative, pagando anche un prezzo leggermente più alto, alcune hanno rifiutato, non hanno accettato completamente, altre sì, pagando un prezzo leggermente più alto e siamo partiti. E ancora una volta a me quei signori mi hanno fatto un baffo guardando lei che ha un bel paio di baffi, perché volere il potere. Volere il potere, signore. A tutto c'è una soluzione. Se noi lavoriamo la soluzione. E la cerchiamo. Prego. Ti piani alto e niente, vero? Mi piace solo ascoltare. Avete ancora qualche domanda, qualche curiosità? Prego. Questa specie di pax mafiosa che è venuta fuori dopo il 92. Questa specie di pax mafiosa, detto, fino al 92 c'è stato Falcone, dal 92 in poi si sono calmati, non è successo quasi più niente. Prego. Sì. Non è successo niente. Non è successo niente. Non ci sono state più morte una cosa così. Non pensa che gli attentati del 93 ai georgofili a Milano, a Roma, siano serviti anche a calmare la mafia, perché la mafia ha avuto quello che chiedeva dal governo, ricattando quello. E adesso che cambierà il governo, non si aspetta. In parte ha perfettamente ragione, siamo in sintonia. Ma lì entriamo nella politica. Infatti, che non volevo fare, visto che allora siamo in sintonia. Adesso andiamo in politica. In pieno con lei, lì ci stanno altri motivi. Lì era stato mafia, politica, e lì non ci voglio andare. Lì praticamente c'è un processo, ci sono dei testimoni, c'è il famoso Papello, c'è qua, c'è là, e destramare. È tutta un'altra questione che io non voglio entrare, non perché altrimenti rischio di colorarmi. Non voglio forzarla. Mi sembra, però io condivido. Ci siamo capiti. Molto chiaro. Grazie. Grazie a te. Prego. Io ho denunciato gli operai? No, ha dovuto denunciare per utilizzare poi il servizio da parte di cooperative. Ma le cooperative sono indenni dal processo mafioso? Guardi, quelli che hanno lavorato con me, perché erano delle cooperative fatte da loro stessi braccianti, più aranci loro raccoglievano, più io pagavo, perché era tutto a chilo. Non credo. Oggi però c'hai i 50 uomini fedati. No. Sono braccianti normali, le persone fidanti, come tu sai, nelle nostre zone c'è il capociurro, il responsabile. No, sono persone che poi non è che le ho fatte io. C'è il capociurma che si fa la ciurma. Ma il sistema è quello, ormai quella lì è consuetudine dell'uomo. Se non ci sono domande, io vorrei chiudere con una considerazione. Non so se potete condividerla, ma mi sento di dover dire che questa storia, la storia di Mario, è straordinaria ancora di più in questi 12 anni, perché secondo me il portare questa testimonianza e l'avere ancora voglia di raccontare la sua storia, di rispondere spesso probabilmente a domande che si sente ripetere più volte, magari anche in un'unica giornata, con questo vigore, con questa forza, con il fatto di crederci, credo che sia anche la testimonianza più bella per i ragazzi. Credo che i ragazzi si portino a casa qualcosa e facciano le domande perché vedono qualcuno che parla perché ha fatto, non qualcuno che parla perché è pieno di intenti ma non ha la storia per poter parlare. Io credo che per i ragazzi, per i giovani, per i bambini, la testimonianza del fare sia la cosa in assoluto più importante. Credo che Madre sia un esempio per tutti, anche per noi, come dicevo, come amministratore torno a casa con sicuramente una forza in più, e credo che tutti noi possiamo tornare a casa con un esempio che, come diceva lui, non è un esempio d'eroe, ma è un esempio davvero cittadino. Cittadino normale. Normale, perché... normale un po' poco. No. Vero, no, mi piace no, più. No. Qui la devo contraddire, perché vedete, io non ho fatto nulla di eccezionale. Se voi pensate che io ho fatto qualcosa di eccezionale, vi siete sbagliati. Oppure non mi sono saputo esprimere io con la mia denuncia ho fatto solamente esclusivamente il mio dovere, perché io non potevo ma soprattutto non dovevo pagare. La mia denuncia è il mio dovere. Oggi io dicevo a dei pulcini della prima media, seconda, terza media che loro, nelle loro classi, per ogni classe, c'è sempre il più stupido della classe, che fa le prepotenze di togliere il quaderno, o la matita, o la gomma, o la merendina, o la qualunque cosa. E loro non glielo devono permettere. Dice, cosa dobbiamo fare? Semplice, ci sono i vostri insegnanti. Dirlo ai vostri insegnanti, denunciarlo ai vostri insegnanti, perché i vostri insegnanti sanno cosa fare, perché nella scuola le istituzioni sono gli educatori, gli insegnanti. Fatto questo, tu hai fatto il tuo dovere. Fatto questo, tu non permetti a quel stupido ancora di continuare a toglierti la matita, la gomma o la merendina che sia. Ma se tu non lo fai, tu legittimi a quel stupido, oggi ti toglie la penna o la gomma o la matita o la merendina, domani ti dice tu mi devi portare un euro al giorno e dopodomani ancora di più, e ogni giorno che passa quel stupido da te legittimato diventa ogni giorno più forte, ma dal momento che tu lo denunci quel stupido finisce di fare il stupido, e questo è nella scuola. E così, signore, e anche negli adulti. I miei istruttori ormai hanno scontato la sua pena. Quando nel mio paese, dove noi ci conosciamo un po' tutti, ci incontriamo, io cammino a testa alta, loro abbassano le corna, la testa, perché io sono nel giusto, loro sono nel torto. Grazie.